do it? Yes. I will. Se fosse una nave, sarei in chiamato sceso, mentre in quella questa città, la nostra terra. L'una notte di andare a sapore della maledizione di Pusani. I will.